Radio 24 Reportage. Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova, la bellezza della velocità. Un'automobile da corsa col suo cofano adorno di grossi tubi simili a serpenti dall'alito esplosivo, un'automobile ruggente che sembra correre sulla mitraglia, è più bella della vittoria di Samotracia. Noi vogliamo inneggiare all'uomo che tiene il volante, la cui asta ideale attraversa la terra, lanciata a corsa, essa pure sul circuito della sua orbita. Bisogna che il poeta si provi. Macchine, mutamento, velocità. Queste realtà, essenza della civiltà moderna, sorgono a emblemi del movimento di avanguardia che nasce in un momento di transizione. Stava infatti per concludersi la stagione della Belle Époque, culminata nella grande esposizione universale inaugurata a Parigi il 14 aprile 1900, che celebrava la scienza, le macchine e la tecnica in un'atmosfera di ottimistica fiducia nel progresso, già pervasa però da una sottile vena di malinconia, e si apriva l'era delle nuove guerre di conquista imperialista, preludio alla prima guerra mondiale che sarebbe scoppiata di lì a poco nel 1914. E noi, attraverso il futurismo, ripercorriamo questa atmosfera oscillante fra ottimismo e catastrofismo che precedette lo scoppio della Grande Guerra e il senso di sgomento che in breve tempo l'avrebbe sostituita. Do il benvenuto ai nostri ospiti, Emilio Gentile, in linea da Roma, dove è ordinario di storia contemporanea all'Università di Roma La Sapienza. Buongiorno, professore. Buongiorno a lei, alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Nei suoi studi si è occupato dei nazionalismi, dell'imperialismo, dei totalitarismi. Buongiorno anche a lei, professor Pier Giorgio Zunino. Buongiorno signora. Lei è ordinario di storia contemporanea all'Università di Torino, ha dedicato una lunga riflessione al rapporto tra intellettuali e fascismo. Emilio Gentile, per cominciare, qual era la novità del futurismo rispetto ad altri movimenti artistici di innovazione in lotta contro l'egemonia della tradizione? Beh, la novità principale è quella di essere una rivoluzione artistica programmata per esercitare un ruolo di cambiamento totale su tutti gli aspetti della vita e quindi non solo sull'arte, e poi di aver avuto fin dall'inizio un orientamento politico che ad altri movimenti di avanguardia che l'avevano preceduta è mancato, o ad altri che pure l'hanno avuto come l'espressionismo tedesco non si è mai concretizzato in un vero e proprio programma politico unitario, cioè volontà politica di un gruppo che esplicitamente si propone di ottenere determinati risultati. Questa novità del futurismo coincide poi anche con la crisi di quella che era l'avanguardismo tradizionale, in un certo senso, per quanto sia contraddittorio parlare di avanguardismo tradizionale, che era in un certo senso la spontaneità, la convergenza spontanea di artisti che si muovevano nell'ambito di una volontà di rompere con la tradizione, ma senza per questo programmare questa rottura. Per i futuristi invece centrare la figura di Marinetti, centrare il concetto di gruppo, centrale la volontà attraverso i manifesti, attraverso la reclama, attraverso la provocazione, le serate futuriste, imporre le loro idee, imporre questa volontà di rottura con il passato e di innovazione radicale. Pier Giorgio Zunino, in che misura il futurismo era il frutto dell'imperialismo di fine Ottocento e di quello che Emilio Gentile chiama nel suo libro il nazionalismo modernista, atteggiamento mentale sorto in Italia all'inizio del Novecento, che si richiamava all'ideologia nazionale? Certamente Marinetti e i futuristi respirano a pieni polmoni il clima che si diffonde non solo in Italia ma anche in Europa all'inizio di secolo. Non dobbiamo dimenticare che il quasi quindicennio che fa da vigilia alla prima guerra mondiale sono anni che sono percorsi in profondità e a volte anche in superficie da fortissime tensioni nazionaliste, da fortissimi contrasti tra i paesi che per quell'epoca, per quegli anni, riescono ad essere contenuti, ma poi esploderanno nel 1914. E certamente Marinetti risente di questo clima, anzi, da abile uomo, perché tale fu in quanto interprete del suo tempo, dell'atmosfera nella quale viveva, sottolineò in modo estremo il significato, il valore, dal suo punto di vista, della violenza, della lotta, dello scontro armato tra i paesi, ma anche all'interno dei paesi. Da dove derivasse poi specificamente in Marinetti questa sua fortissima propensione verso un nazionalismo, ma intendiamoci bene, un nazionalismo estremamente aggressivo, ecco, questo è un po' tema che forse è ancora aperto. Sicuramente aveva fatto delle letture non molto approfondite di Nietzsche, che peraltro poi Nietzsche sarebbe andato in tutt'altra direzione. Si risente, ecco, più che cogliere con l'evidenza della prova, si risente anche di quella tendenza che fu chiamata allora di darwinismo sociale, al cui interno vi era appunto il senso di una lotta degli uomini, così come si riscontrava nella natura. Noi poi siamo giusto nel centenario di Darwin e questo è sicuramente un elemento che si deve sottolineare, ma intendo dire, non erano state tutte letture molto ben digerite, era un grande inventore, ecco, in un certo senso, e quindi si trovò, possiamo dire, con le sue idee al momento giusto, nell'epoca giusta, per trovarsi in sintonia con un clima collettivo. La parola Italia deve dominare sulla parola libertà. La parola libertà, che aveva il suo valore assoluto di violenza e di rigenerazione nella bocca di Garibaldi e di Mazzini, è diventata una parola imbecille e sciupata nella bocca d'un Turati o d'un Bissolati antilibici. Mentre invece la parola Italia ha oggi il suo massimo fulgore e il suo massimo valore dinamico e combattivo. Così scriveva Marinetti, descrivendo l'essenza dell'atteggiamento politico futurista in occasione di una serata futurista al Teatro Verdi di Firenze nel 1913. Professor Gentile, l'italianismo fu un'altra componente fondamentale della filosofia futurista. Dunque, l'italianismo è la caratteristica singolare del futurismo che in qualche modo ne spiega anche l'origine, perché ciò che spinge questo gruppo di artisti e di intellettuali, Marinetti in testa, a promuovere il futurismo è la volontà di rigiovanire, rinnovare, trasformare l'Italia, troppo sovraccarica della gloria passata, troppo legata al culto del passato. C'è una stretta relazione quindi fra l'avanguardismo del futurismo e il suo italianismo. Questo termine lo adopero per non confondere quello che è il nazionalismo futurista, questa esaltazione della parola Italia sulla parola libertà, con altre forme di nazionalismo italiano che guardavano invece alla tradizione come una fonte primaria di ispirazione. Per il futurismo l'italianità deve essere un dato fondamentale della sua genialità, c'è questa convinzione che l'Italia abbia una sorta di genetico primato nella modernità e che quindi debba riconquistarlo attraverso una deliberata volontà di affermazione del proprio primato, e lo affermano anche nei confronti della stessa avanguardia francese dalla quale avevano tratto ispirazione, forse proprio per questo. Si deve poi considerare che Marinetti era nato ad Alessandria d'Egitto e lì, come racconta nelle sue memorie, aveva sperimentato il primo scontro con altri stranieri che vivevano in Egitto, soprattutto nel periodo in cui, con la sconfitta di Adua, l'Italia aveva subito da parte di una piccola potenza africana una sconfitta che altre potenze europee invece non avevano mai subito, oppure avevano riuscito poi a conquistare il loro impero. Quindi l'italianismo si coniuga nel futurismo anche con l'imperialismo, cioè con la volontà di una espansione coloniale dell'Italia. A quel punto la parola libertà non significa quasi più nulla dal punto di vista politico, nel senso che libertà per il futurismo equivale a genialità individuale, capacità creativa, volontà di rompere la tradizione, vitalità piuttosto che libertà politica. Infatti loro sono contro la democrazia parlamentare, contro lo Stato liberale, contro il governo giolittiano che in quel periodo dominava la politica italiana. Quindi esaltazione della violenza, disprezzo per la democrazia, incitamento a una politica estera aggressiva e interventismo dei futuristi, professor Zunino, che invocano la guerra sin dal 1909 e nel loro programma politico del 1913 chiedono una più grande flotta e un più grande esercito, una politica estera cinica, aggressiva, astuta, l'espansione coloniale, motivi dunque tipici per questo momento storico. Sì, certamente. Lo scoppio della guerra, della prima guerra mondiale, possiamo dire che sia l'inveramento della profezia dei futuristi. La guerra finalmente è arrivata, finalmente giunge con tutto ciò che significa. Dobbiamo certo osservare che i grandi massacri, che in molti naturalmente proprio furono visti come un momento di svolta negativa nella storia dell'umanità, invece sono motivo di esaltazione. I futuristi in fondo hanno proprio ciò che hanno sempre chiesto e predicato, e in questo ci sta anche un significato storico molto profondo e interessante nel futurismo. E a questo proposito dovremmo ricordare proprio la grande formula in cui Marinetti, che era un abile costruttore anche di slogan, ben inteso, racchiuse questo senso bellicista che fu proprio del futurismo e che si trasmise poi ad altri movimenti, altri orientamenti, cioè della guerra sola igiene del mondo. Sudire tanto dalle amate sponde, sommessa di elettricità.